di vesta che porta il tempio e rompe con ali e fiamme la giovinezza va. Fiaccole ardenti sull'aria e sulle tombe, noi siamo le speranze della nuova età. Luce, luce, chi non saprà morire, il giuramento chi mai rinegherà. Snuda la spada quando tu lo vuoi, gagliardetti al vento tutti verremo a te. Armi e bandiere degli antichi eroi, per l'Italia duce fa balenare al sol. Va, la vita va, con sé ci porta e ci promette la ci porta e ci promette.